Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci insieme per cominciare una nuova giornata. Sono certa che anche oggi raccoglieremo le nostre soddisfazioni. La ripresa, come sempre, è un po' faticosa, ma quest'anno lo è in modo particolare. Ma noi ce la faremo. Nonostante il clima di incertezza, di apprensione che avvertiamo intorno a noi, non lasciamoci intrappolare dai meccanismi mentali che la nostra psiche attiva quando si trova a fare i conti con una situazione poco chiara, una situazione che avverte come minacciosa, come pericolosa. Allora, impariamo a riconoscere questi meccanismi per trovare anche il modo di disinnescarli qualora ci rendessimo conto che condizionano negativamente la nostra quotidianità. Ci aiuta oggi il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università di Milano e presidente di Assomensana. Professore, bentornato, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie. Professore, ci aiuti un po' a individuare i meccanismi mentali che possono in qualche modo remare contro alla nostra voglia di riprendere una nuova e appagante normalità. Sì, teniamo conto che quando siamo davanti a fatti incerti o capitano eventi particolari fuori dal nostro controllo, si attivano 5 meccanismi psicologici, 5 meccanismi mentali che nel tempo sono serviti per farci sopravvivere, ma che adesso possono essere anche d'impaccio per quanto riguarda la nostra serenità. Sono 5 meccanismi. Il primo meccanismo lo possiamo chiamare negativo e bello, ossia siamo attratti dalle notizie negative più di quelle positive. È famoso il detto che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Solitamente la nostra attenzione viene catturata sempre da ciò che ci spaventa rispetto invece a ciò che è positivo. Il secondo meccanismo... E questo è fisiologico, ma ci protegge naturalmente perché ci fa individuare i pericoli, ma alla lunga può in qualche modo interferire sulle nostre azioni, sui nostri pensieri, sul nostro modo di guardare la vita, di organizzare la nostra giornata. Sì, perché potremmo essere continuamente attratti dagli eventi negativi e lasciar perdere quelli positivi. È come se noi stessimo continuamente a scrutare i rumori che arrivano da dietro il cespuglio e non vediamo l'albero di frutti davanti a noi. Quindi potrebbe impedire, diciamo, una serena ed equilibrata salute, diciamo, durante la quotidianità. Allora, quindi il primo meccanismo negativo e bello, ce l'ha presentato in questo modo. Andiamo al secondo. Il secondo lo chiamerei probabilità improbabile, ossia... In che senso? In che senso? Nel senso che consideriamo più probabili gli eventi che ci sono rimasti impressi, cioè come quelli negativi, piuttosto che basarci sulla loro probabilità oggettiva. Ossia, tendiamo, c'è cioè un meccanismo che ci porta a generalizzare soprattutto gli eventi negativi. Non è un caso che quando ascoltiamo un fatto di cronaca che è successo in città, tendiamo a ritenere la città più pericolosa, quindi ad avere una percezione del pericolo urbano maggiore rispetto a quello che è la realtà, che sono i dati oggettivi. Ci sono molti studi dell'Istat e di vari enti che confermano proprio la differenza tra ciò che è percepito dai cittadini e ciò che invece è un fenomeno reale. Il terzo meccanismo lo chiamerei effetto contagio, ossia quando osserviamo che ci sono altre persone che hanno paura, solitamente anche in noi si innesta la paura, anche se prima non ce l'avevamo. La conseguenza è che questo diventa rapidamente un fenomeno di massa, e quando per esempio capita che c'è una folla in piazza, qualcuno inizia a correre e tutti gli altri, pur non sapendo che cosa stia succedendo, corrono con loro, cioè nessuno vorrebbe rimanere fermi mentre gli altri scappano. Certo, la paura è contagiosa. La paura è contagiosa. Il quarto meccanismo lo chiamerei si governa ciò che si sa, cioè noi riteniamo più pericoloso, ciò che non possiamo controllare rispetto a ciò che invece controlliamo bene. Facciamo l'esempio: noi riteniamo più rischioso viaggiare in aereo, fare un viaggio in aereo, piuttosto che fare un viaggio in auto, nonostante le probabilità sulla sicurezza dei trasporti ci dicano che l'aereo è di gran lunga il mezzo più sicuro. Il quinto e ultimo meccanismo lo chiamerei alla ricerca di conferme, ossia siamo più propensi a raccogliere le notizie che confermano la nostra idea, piuttosto che le informazioni contrarie. Cioè, una volta che adottiamo un'idea, che ci facciamo una convinzione, si fa fatica a cambiarla, perché questo metterebbe in conflitto le nostre idee. Per cui noi prendiamo posizione, quando prendiamo posizione, nonostante le evidenze, non riusciamo a cambiare. Questo lo sperimentiamo tutti i giorni, per esempio nelle conversazioni con amici, familiari, eccetera. Insomma, siamo fedeli alle nostre convinzioni. Professore, adesso che abbiamo preso in esame col suo aiuto questi meccanismi, ci aiuti un po' a capire se e come possiamo disinnescarle, o meglio, come possiamo mantenere di questi meccanismi la parte utile, buona, quella che ci aiuta a proteggerci, ma senza paralizzarci. Sì, torniamo alla metafora di prima, no? Del sentire i rumori dietro il cespuglio piuttosto che vedere l'albero di frutti. Allora, orientiamo la nostra attenzione verso ciò che è positivo. Per esempio, per il primo meccanismo, il meccanismo negativo è bello, possiamo imparare a focalizzarci soprattutto sugli aspetti positivi di qualcosa che sta succedendo. Ad esempio, durante la giornata è utile allo scopo individuare 3 notizie positive al giorno, cercandole, cioè proprio andiamo alla ricerca di cose positive, per esempio sfogliando una rivista, ascoltando la radio, guardando la TV, o camminando per strada. Ci sono tanti eventi positivi, andiamo a scovarli, iniziamo a contrastare il meccanismo della negatività e cerchiamo gli eventi positivi. Io direi che già con la trasmissione di Nicoletta Carbone facciamo il pieno in prima mattinata. Ma che carino, professore, grazie. È vero. Il secondo meccanismo, che abbiamo chiamato probabilità improbabile, ecco, per esempio, quando ascoltiamo un evento negativo, scriviamo su di un foglio la notizia, scriviamola, perché in questo modo evitiamo di riascoltarla quando ci si ripresenta. La cataloghiamo come già appresa e quindi inutile da risentire. Così evitiamo l'effetto martellamento ed evitiamo di generalizzare a tutto il sistema l'effetto negativo di quella notizia. Il terzo espediente che suggerisco per contrastare il meccanismo dell'effetto contagio è cercare 3 possibili sviluppi futuri di un evento, cioè rispetto a ciò che sta accadendo. Se sta accadendo un fatto negativo e quindi c'è il pericolo che veniamo contagiati da quest'onda emotiva negativa, pensiamo a cosa c'è di positivo dopo. Così in questo modo attenuiamo la tensione emotiva sull'evento e pensiamo a qualcosa di positivo. Quindi riusciamo a rimanere fermi senza scappare con la massa e abbiamo una maggiore serenità rispetto ad un evento che ci sta in qualche modo coinvolgendo come effetto, non direttamente. Arriviamo al quarto meccanismo, che lei ha definito si governa ciò che si sa, facendo l'esempio appunto del viaggio in auto e del viaggio in aereo, che noi percepiamo come più a rischio rispetto che quello su cui, no, siamo più pratici, e il viaggio in automobile. Si governa ciò che si sa. A volte non abbiamo tutte le informazioni relative ad un evento. Se ci interessa, e io suggerirei di focalizzarci su ciò che è positivo, raccogliamo almeno 5 dettagli di quella situazione. In questo modo che cosa facciamo? Rinforziamo la nostra percezione di controllo e ci sentiremo più sicuri. Se qualche evento non è controllabile o soprattutto non è rilevante per la nostra vita, ignoriamolo, non dobbiamo fare tutto, diciamo interessarci di tutto. Cerchiamo invece gli elementi per controllare ciò che serve alla nostra vita, ciò che ci interessa. In questo modo anche la nostra autostima, la nostra sicurezza si incrementa perché abbiamo la percezione che sappiamo governare ciò che ci capita. L'ultimo meccanismo, alla ricerca di conferme, io proporrei: quando abbiamo una convinzione tenace, impariamo ad utilizzare le parole sì, però, se fosse. È un modo per insinuare il dubbio e scardinare la convinzione. Impariamo, cioè, in questo modo mettiamo in discussione l'affermazione precedente e cerchiamo diversi punti di vista. Sì, però, se fosse, quindi se noi sosteniamo una tesi, proviamo a metterci dal punto di vista dell'altro. Ma come la penserete? Questo è un suggerimento utile anche per migliorare le nostre relazioni, metterci nei panni degli altri. Sì, ed è importante, stimola anche la flessibilità cognitiva, quindi la capacità di metterci da diversi punti per guardare la stessa scena, cioè diventiamo registi e abbiamo, diciamo, sul nostro luogo diverse telecamere e accendiamole ad una e vediamo le cose in modo differente. Questo ci consente, come dice lei, di migliorare anche le relazioni perché riusciamo ad integrare il punto di vista dell'altro. Professore, ma grazie per questi suggerimenti, insomma, lei ci ha portato in palestra. Grazie Nicoletta per l'ospitalità. D'altra parte, questo è un mese in cui tutto ricomincia, ricominciano gli allenamenti per tutti noi, a scuola, nelle relazioni, nello sport, è il mese della ripresa e quindi torniamo a misurarci con i nostri limiti, le nostre fragilità, ma anche dobbiamo focalizzare e investire sui nostri punti di forza. Sì, è l'occasione anche per fare un check-up, per capire qual è lo stato di salute delle nostre capacità, delle nostre abilità. È a Somenzana, proprio dal 21 al 26 di settembre, promuove la 13ª edizione della settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale. Noi ce lo ricorderemo sicuramente, professor Iannoccari, ma lei tornerà ad allenarci prima del 21, Quindi torni presto a trovarci con degli allenamenti per potenziare anche le nostre funzioni cognitive. Ci fa bene, come a dire, professore? Grazie per essere stato con noi. Grazie Nicoletta e buona mente a tutti. Grazie a Laura Vanossi che è in redazione, a Edoardo Lavezzari che è in assistenza, a Carmelo Lauricella la parte tecnica. Come sempre ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.